Ma che caldo faceva, brigatiere apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Sir questore, io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, e l'autore di questo delitto tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se insisti aprian la finestra, quattro piani son duri da fa. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva, brigatiere apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Radio Onda Rossa 11:20, 87.900 in FM, la ballata dell'anarchico Pinelli che introduce a questo spazio dedicato alla strage di Piazza Fontana. E dunque, lo annunciavamo anche prima, da parte nostra il tentativo comunque di riflettere assieme sul periodo dello stragismo, cercando di perlustrare appunto queste vicende dandone una nostra lettura. Lo abbiamo fatto anche commentando la sentenza assolutoria di Brescia, cioè per la strage di Piazza della Loggia di un paio di settimane fa. Insomma, noi pensiamo che su queste vicende c'è ormai il ripetersi stanco di un ritornello, di un refrain che pensiamo alla fine faccia comodo a tanti. Il ritornello in questione è: non sappiamo nulla, non sappiamo la verità sulle stragi. Molto spesso si parla tra l'altro di verità giudiziaria, confondendo le verità accertate e documentate dal punto di vista storiografico, ma in un certo senso anche dai tribunali, perché poi proprio su Piazza Fontana, insomma, l'inchiesta Salvini ha comunque detto delle cose, soprattutto in merito agli esecutori materiali della strage, cioè gli ordinovisti veneti, che comunque pur non essendo diciamo condannabili, perché già assolti in processi passati, sono comunque a tutti gli effetti stati indicati come colpevoli della strage. Ma insomma, da parte nostra, al di là di qualsiasi discorso in merito alla colpevolezza e al dare anni di galera a questo o quel fascista, ci interessa il discorso di fondo. Dicevamo, un ritornello, quello di dire che non si sa nulla sulle stragi, che fa comodo. A chi fa comodo? Crediamo che faccia comodo innanzitutto a chi è coinvolto con tutte le scarpe, insomma, nello stragismo, no? Dire che non si sa nulla in un certo senso scagiona dalle responsabilità. Fa comodo poi anche a diciamo chi svolge così di professione il rovistatore, e che quindi, mosso da chissà, diciamo, quali intenti di così scoop giornalistico o storico, si cimenta con l'idea di dare la verità rivelata sullo stragismo, su Piazza Fontana o su altri fatti eclatanti della storia della Prima Repubblica. Ci riferiamo in modo particolare, insomma, a appunto l'attività di tanti pennivendoli e giornalisti, anche di eifu storici prestati a questa attività rovescista, come qualcuno abilmente l'ha definita. Perché diciamo questo? Perché, insomma, negli ultimi anni abbiamo potuto osservare quanto gli scoop, le verità rivelate con tanto clamore, in realtà hanno spesso davvero confuso le acque in un strano esercizio, cioè quello di mettere sul banco degli imputati gli appartenenti alle classi subalterne. E quindi, per la storia della Resistenza, sul banco degli imputati ci vanno i partigiani; per la storia degli anni 70 sul banco degli imputati ci vanno i movimenti operai e diciamo i movimenti operai studenteschi, i movimenti collettivi in generale. Inevitabile che per la storia di Piazza Fontana, così tanti anni di distanza, prima o poi finissero di nuovo sulla gogna, sul banco degli imputati, gli anarchici, già diciamo colpevolizzati della strage nell'immediato di quel dicembre 1969. Poi sappiamo bene, insomma, che le indagini si sono indirizzate nel comporre questa pista nera, ma che in realtà è una pista all'interno della quale sono forti e individuabili le responsabilità degli apparati statali. Ecco che di nuovo, insomma, in alcune recenti ricostruzioni di Piazza Fontana, Valpreda è rimesso, diciamo, là sul luogo dell'attentato, con un'operazione abbastanza subdola, poi, perché appunto, sebbene non si dica nulla di nuovo poi sugli effetti reali, insomma, di quanto accaduto, perché comunque la strage continua a essere imputata alle versioni nera e così sia, comunque alla fine ne esce fuori, insomma, un ritratto degli anarchici di allora ancora in ballo, insomma, con le bombe, con attività dinamitarde, quando poi poche cose, diciamo, sono subito apparse chiare, cioè l'innocenza degli anarchici. Intendiamoci, innocenza chiaramente relativa a questi fatti. Poi chiaramente gli anarchici sono sempre stati colpevoli di lottare per la trasformazione sociale, per un mondo diverso, e questa colpa, questa colpevolezza, diciamo, l'hanno sempre rivendicata con orgoglio. Ci prendiamo ancora pochissimi minuti prima di diciamo far intervenire i compagni che sono qui venuti a trovarci, proprio per essere chiari su questo discorso, diciamo. Il ritornello della mancanza di verità su Piazza Fontana. Insomma, non siamo certo noi a dover dire in modo così liquidatorio, insomma, quello che è successo. Quello che è successo è ormai agli annali della storia e delle cronache. La strategia della tensione, lo stragismo, è nato, è stato elaborato all'interno degli apparati dello Stato, certamente dei servizi segreti, però, insomma, intendiamoci, perché spesso quando si parla di servizi segreti sembra che si stia parlando di strutture occulte che complottano ai danni dello Stato democratico. Insomma, questa è una solfa. Quando parliamo di servizi segreti parliamo di strutture operanti create all'interno dei gangli dello Stato, dipendenti dal Ministero dell'Interno, dipendenti dallo Stato Maggiore della Difesa. Gli uomini coinvolti poi rappresentavano i vertici di questi servizi segreti. Basta scorrere insomma i nomi che più escono fuori nelle indagini, e dunque è chiaro che le responsabilità vanno ricercate lì. Gli esecutori delle stragi e dell'intero periodo stragista, certamente anche su questo è stata fatta piena luce, si diceva prima in particolare dei fascisti di matrice ordinovista, e diciamo sempre da parte nostra è da ritenersi una balla il fatto che la strategia della tensione sia stata in un certo senso poi sgominata grazie agli anticorpi seminati qua e là dallo Stato Democratico, perché se qualcuno pensa che quella strategia fosse fosse compiuta, fosse messa in atto per poi arrivare alla creazione di un colpo di Stato mano militari come la Grecia, beh, si sbaglia. Evidentemente non era tanto quello l'obiettivo, insomma, di chi ha mosso le fila di quel discorso attraverso le stragi, ma quello di arrestare la forza delle lotte del movimento operaio e di protesta di quegli anni, forza che poi insomma nei cicli di lotte successivi evidentemente a quel livello non si è mai ripetuta, e che se è riuscita nei suoi intenti ci è riuscita perché è riuscita a far rinchiudere nel privato migliaia di persone anche attraverso un'attività repressiva incommensurabile, distribuendo anni di galera a partire proprio da coloro i quali furono considerati colpevoli della strage di Piazza Fontana. Insomma, questo è il quadro generale che ci sentiamo di offrire a chi ci ascolta. Oggi sono qui con noi appunto i compagni del Cafiero, avremo anche dei contributi telefonici. Io passo subito la parola a Marco per insomma invece chiedere a lui, a 41 anni di distanza, qual è il portato di questa storia. Chiaramente di argomenti ce ne sono tantissimi, lascio a lui la scelta. Buongiorno a tutte e tutti. Sì, io volevo dire che questa trasmissione di oggi, come tutta una serie di attività... Allora, scusa un attimo Marco, sì. Forse è il caso di cambiare microfono perché quello non lo sento. Vedi un po'. Può andare? Vai, perfetto. Okay. Allora ripeto, rinnovo il buongiorno a tutte e tutti. Dicevo che questa giornata, questo momento, questo spazio, di cui tra l'altro ringraziamo i compagni di Ondia Rossa, si colloca all'interno di un percorso che i compagni del Cafiero hanno avviato già da qualche anno, che mira proprio a andare a riaffermare, a riparlare di quelle che sono verità storiche che a volte sembrano lontane nella nostra storia, ma poi così lontane non sono. Ricordiamo che tutte queste cose di cui abbiamo parlato, quindi le bombe, le stragi, la strategia della tensione, servirono anche a consolidare un potere che c'è ancora oggi. I personaggi che oggi sono al potere in quegli anni erano poi gli emergenti. Lo stesso Berlusconi all'epoca era un rampollo dell'edilizia milanese, insomma lì si sono consolidati alcuni passaggi. Parlare di questo quindi non è parlare di una storia conclusa. Sicuramente è importante l'affermazione di fronte alla storia. Di quella giudiziaria ovviamente non ce ne preoccupiamo, nessuno di noi, credo neanche allora, aveva mai avuto nessun tipo di aspettativa rispetto a questo tipo di discorso, però ecco, appunto, è importante invece ricordare che cosa è successo e cercare di capire un po' in che modo poi ha determinato quello che accade oggi, e anche il fatto che poi oggi alcune verità che erano state date grazie alle importanti campagne di controinformazione che i compagni all'epoca portarono avanti per contrastare la propaganda del potere. E appunto, rispetto a questo, anche oggi ci troviamo di fronte a dei tentativi ancora di rimettere in discussione quelle verità. Abbiamo citato il caso del pendivendolo Cucchiarelli, che è ritirato fuori tra l'altro in una maniera che è veramente ridicola, cioè parlando di fantomatici Mister X, di personaggi davvero non meglio precisati, cioè non siamo veramente alla fantastoria a parlare di cose che poi vanno ancora a colpire compagni che hanno pagato già carissimo prezzo. Non mi riferisco solo ai compagni che sono morti e che non sono solo quelli direttamente collegati alle stragi, ma anche quelli che sono morti strada facendo. Non a caso noi qualche mese fa abbiamo portato, cercato di ricordare in un momento appunto di ricordo e di lotta i cinque anarchici calabresi che per gli stessi motivi furono uccisi venendo da Roma a da Reggio Calabria a Roma per portare appunto dei documenti su quello che era poi quella strategia eversiva, naturalmente pilotata dagli apparati dello Stato. E appunto, quindi oggi come allora tutto questo viene rimesso in discussione, sembra quasi, cioè a volte fa sorridere per modo di dire, insomma, ci troviamo davvero a ridire le stesse cose che davamo per acquisite, che sono 40 anni che stiamo lì a dire che dal fatto che Capriel è stato assassinato a, appunto, al fatto che non c'erano operazioni come queste, appunto, dicevo, non solo editoriali. Abbiamo visto l'anno scorso che il Napolitano ha fatto questa specie di farsa cercando di dire la pacificazione storica, sfruttando tra l'altro il dolore di una donna, di una compagna che si è vista strappare dalle sue braccia, dalle braccia dei propri figli, un marito, un compagno di vita, insomma. Quindi tutto questo appunto è un'operazione che noi facciamo. Oggi siamo qui, la puntata di oggi cerchiamo di incentrarla un pochino più su quello che è stato proprio quello che è successo immediatamente dopo Piazza Fontana. Quindi il fatto che gli anarchici furono subito presi a bersaglio dalla repressione poliziesca. Avremo il collegamento telefonico con Lello Valitutti, che è il compagno, per chi non lo sapesse, l'ultimo compagno che ha visto Pinelli vivo, quello che stava con lui in questura, l'ultimo rimasto con lui in questura la notte in cui venne assassinato dal commissario Calabresi e dai suoi colleghi, diciamo. Senti, no, una cosa, insomma, vorrei chiedertela prima di contattare il compagno al telefono, perché insomma è giusto, tu hai parlato del tentativo che anche l'anno scorso è stato fatto nel cercare, diciamo, di approdare a una sorta di memoria condivisa. Questo è un discorso, insomma, che tra l'altro si cerca di fare a ogni piesso spinto anche per la resistenza. L'accostamento chiaramente è logico, perché in queste condizioni si cerca poi di mettere tutti insieme, no? Cioè vittime e carnefici, come al solito c'è la teoria degli opposti estremismi che va sempre bene raccontata in tutte le salse. E da parte nostra noi vorremmo dire i motivi per cui noi ci opponiamo a una memoria condivisa. Insomma, una memoria condivisa cosa potrebbe significare, se diciamo a marcarla, a diciamo distribuirla, a diffonderla è lo stesso Stato che si è reso poi complice, ma in realtà noi dovremmo dire che ha orchestrato la strategia della tensione. Questa memoria condivisa crediamo in realtà coincida con la memoria di Stato, perché poi questo è quello, insomma, che evidentemente vuol dire, insomma, di fronte alla memoria di Stato che con mille affanni e che con durissime prove anche le controinchieste di movimento sono riusciti a scalfire, ora riproporcela a 41 anni di distanza noi davvero non ci stiamo, insomma. Assolutamente, è proprio quello il discorso che facevamo, appunto, per noi è importante oggi tornare a ribadire quelle verità proprio di fronte a questi attacchi, perché probabilmente il tentativo lo stanno riportando avanti per tutta una serie di situazioni. Sicuramente ci si aspetta che prossimamente ci sia diciamo una nuova fase di lotte, perché la situazione la vediamo sotto gli occhi tutti i giorni, è quella che è, sia le condizioni sempre di peggiore indigenza in cui larghissima parte della popolazione viene costretta da una crisi causata invece da sistemi finanziari e di potere, e quindi loro sicuramente in questa fase aspettano questo tipo di discorso. Fare un discorso di pacificazione tra virgolette sociale, di mettere sullo stesso livello i carnefici e le vittime, è sicuramente un passaggio che serve come dire, a dare un appiattimento, a cercare di creare un'uguaglianza. Non a caso Napolitano, ho citato Napolitano, che tra l'altro è stato negli anni delle inchieste del giudice Salvini anche ministro degli interni, per cui voglio dire lui ha avuto anche un ruolo determinante in quello che è stata poi l'attività. E ripeto, tutto questo avevo detto già prima, oltre alle vittime, le vittime che sono morte, ci sono anche le vittime che tuttora sono compagni, sono attivi, che noi abbiamo avuto modo di incontrare e stiamo facendo questo percorso anche insieme. Mi riferisco a molti dei compagni del 22 marzo che insieme a Valpreda fecero anni di galera sulla base di nulla davvero, cioè ci sono i loro racconti, avremo modo di parlare anche con loro nei prossimi interventi che faremo. E lì tu ti accorgi di come poi l'operazione fu anche grottesca per certi versi, cioè veramente lì uno riesce a vedere bene qual è poi la faccia del potere, quello che stanno organizzando e chi sono questi personaggi anche a livello proprio direi umano, cioè proprio non c'è nessun tipo di riserva di cosa. E quindi appunto poi fare la pace, cercare una memoria condivisa, la memoria condivisa andrebbe cercata al limite e sicuramente non sarebbe neanche trovata appunto con queste persone, perché è vero che è stata invitata la vedova Pinelli, ma non sono stati invitati i vari Roberto Pagargamelli, Roberto Bagnoli, Enrico Di Cola e quant'altri, Bello Vali tutti e quant'altri hanno subito la repressione dello Stato. E quindi noi siamo qui per dare voce anche a questi compagni, siamo qui per ricordare insieme e cercare di ancora una volta con la controinformazione e dare una spallata a questi meccanismi che il potere cerca di mettere in atto. Dunque, non so se è il caso, magari poi lo faremo anche con la telefonata, ma insomma anche per introdurla, visto che tu l'hai citato, io ti chiederei di, a vantaggio di chi ci ascolta chiaramente, di ricostruire anche un po' questa vicenda dei 5 anarchici morti giù in Calabria, mi pare nel settembre dell'anno successivo, del 70, giusto? E cosa c'entra, diciamo, questo fatto, questo tragico episodio con la strage, poi anche di lì insomma non si parla di tragica fatalità, visto che sembra che quanto accaduto a questi 5 compagni sia anche lì frutto di un artefatto, insomma, ha le sue responsabilità ben precise, no? Sì, in effetti da subito quella vicenda suscitò delle perplessità nei compagni. Cioè la sera in cui i compagni furono trovati morti sull'autostrada, nel tratto di autostrada che attraversa di fronte a Ferentino praticamente tra Frosinone e Roma, da subito emersero delle perplessità, diciamo un pochino poi schiacciate dalla velocità e dalla pressione di quelle fasi. Ricordiamoci che Piazza Fontana era appena successa, erano tutti molto impegnati nella cosa e quell'incidente, nonostante sembrò molto strano, per un po' venne quasi messo nel dimenticatoio da tutti quanti. Poi qualche anno dopo, nel 95 mi sembra, non ricordo precisamente l'anno, le dichiarazioni di un pentito fecero parlare di nuovo di quella storia. Quindi lui disse che sapeva bene che c'erano stati dei mandanti per l'uccisione di questi compagni. Le cose che suscitarono subito stranezza, tra le più evidenti, era che ad esempio l'autostrada nel tratto dove vennero uccisi i compagni attraversava il terreno del Principe Nero, di Giulio Velo Borghese. I due fratelli che guidavano il camion col quale questi compagni ebbero l'incidente era guidato da due dipendenti di Borghese. I compagni, parliamo un po' dei compagni. I compagni facevano un'ottima attività anche lì di controinformazione, ma anche politica e sociale a Reggio Calabria, una zona che in quegli anni fu teatro di un accesissimo scontro sociale, lì innescata sulla rivendicazione della provincia che doveva essere assegnata a Reggio Calabria secondo i Reggini. I fascisti organizzarono una sorta di guerra civile, così potrebbe dire, proprio così, cioè con i carri armati per le strade, barricate e cose di questo genere. I compagni, molti pensano che in realtà, appunto dicevo, sono stati uccisi mentre portavano questo dossier che era una raccolta di documenti e di fotografie che avevano raccolto durante queste giornate di scontri. Tra l'altro qualche tempo prima loro dovevano portare questi documenti alla redazione di Umanità Nova, che all'epoca era a Roma. Avevano già tentato di spedirli, ma stranamente il plico non era mai arrivato a Roma, quindi decidono di partire con la macchina e di portarli di persona. I compagni di Reggio Calabria avevano anche dei rapporti abbastanza stretti con i compagni della 22 marzo, non a caso. Scordo era stato fermato insieme ai compagni del 22 a Roma una volta e venne subito rilasciato perché stranamente aveva riconosciuto un fascista in questura. Quindi, detta questa cosa, lui aveva riconosciuto, viene subito scarcerato e rimandato a Reggio Calabria. Quindi c'è una cosa, qualcosa che lega a doppio filo queste vicende. E il golpe borghese era quello che poi un po' si diceva, quelle bombe dovevano appoggiare per quel tentativo di colpo di Stato che di fatto c'è stato. E poi chiamiamolo tentativo, alla fine non è stato arrestato nessuno, probabilmente non è stato così un tentativo, magari poi c'è stato qualche tipo d'accordo. Per quello noi diciamo che in quella fase lì alcuni meccanismi di potere si sono creati e poi si sono consolidati. Non è che la strategia della funzione non ha avuto effetti o è stata completamente rispedita al mittente dalla controinformazione, qualche effetto l'ha portato. Il sistema che noi oggi vediamo è determinato da quelle cose. Andare a riparlare di quello, a riscoprire quali erano i passaggi, fortunatamente, come dicevamo, con l'apporto ancora reale di chi ne fu protagonista, perché ripeto, i compagni che di quelle lotte furono protagonisti, molti di loro sono ancora a lottare insieme a noi, a raccontare queste storie. Tutto questo ci può aiutare a capire un po' qual è l'attuale sistema di potere e quindi cercare di trovare dei meccanismi anche oggi per opporsi a tutto questo. E certo, dunque, uno spazio radiofonico che intreccia ricostruzioni del passato, che necessariamente devono coniugarsi anche con una riflessione sul presente, su che cos'è oggi lo Stato, come lo Stato oggi muove i suoi burattini per conservarsi al meglio, per perpetuare il suo sistema di dominio e di sfruttamento, e insomma temi che chiaramente dovrebbero essere così un po' l'ABC di tutti i compagni e le compagne in questa fase storico-politica. Insomma, noi adesso ci colleghiamo con un compagno che quei tempi li ha vissuti, per sapere meglio da lui, insomma, questo tipo di vicende, e rilanciamo anche musicalmente il tema di Piazza Fontana con una famosa canzone di Pino Masi, perché oltre ai morti subito dopo i morti della strage, gli anni di galera, gli arresti e le responsabilità individuate negli anarchici, anche gli anni successivi non furono da meno. Il primo anno di anniversario della strage, muore Saverio Saltarelli durante gli scontri a Milano. Primo anniversario della strage, fatta con le bombe dei padroni. Loro l'hanno calcolata bene, per fregarci con la repressione. Carcere, denunce, rappresaglie, hanno stipendiato le canaglie, i fascisti facce da carogne, li hanno ripescati dalle fogne. Dicembre a Milano, manifestazione per la Spagna, passa un corteo partigiano coi carabinieri alle calcagna, poi si scioglie, alcuni vanno via, altri restano lì coi pugni alzati a gridare viva l'anarchia. Da calabresi fucilati, Vittorio al vicequestore con la radio, chiama autoblindo e camionette, con la bocca secca scuda odio e ordina la carica e le botte. Scoppiano dovunque candelotti, bruciano i polmoni da star male, c'è chi cade sotto i poliziotti e chi corre verso la statale. In via Torino non ci sono scampi, in via larga ci sono gli studenti con il casco e la bandiera rossa, urlano feroci e si vede, arrivano gli anarchici di corsa, i compagni danno protezione e Vittoria non si perde l'occasione. Era proprio quello che voleva, con la scusa dell'inseguimento, in via larga coi crampi arriva, che si getta sul rosso Parlamento. Catà, catà, catà, gangà, catà, catà, catà, gangà, catà, catà, catà, gangà, catà, catà, catà, gangà. Tanti hanno paura, scappan via, restano a combattere i Katanga sulle ossa della polizia, picchiano col ferro della spranga, la questura spara col fucile e coi sassi noi ci difendiamo, mandiamo tanti all'ospedale, ma stavolta cara la paghiamo. Catà, catà, catà, gangà, catà, catà, catà, gangà, catà, catà, catà, gangà, catà, catà, catà, gangà. Noi t'abbiamo visto lì per terra con la bocca aperta, gli occhi gialli, eri morto come in una guerra, circondato, ucciso da sciacalli. Primo anniversario della strage, fatta con le bombe dei parroni, loro l'hanno calcolata bene, per fregarci con la repressione. Ma vi fregherà il proletariato quando starà forse anche domani. Non si parlerà di sindacato, ma di comunismo e punizioni. E allora tu ci lascerai la pelle, tu Marzotto e tu Giovanni Agnelli, perché ce ne saranno altri mille per ogni Saverio Saltarelli. E allora tu ci lascerai la pelle, tu Marzotto e tu Giovanni Agnelli, perché ce ne saranno altri mille per ogni Saverio Saltarelli. Primo anniversario della strage, fatta con le bombe dei padroni, loro l'hanno calcolata bene, per fregarci con la repressione. Carcere, denunce, rappresaglie, hanno stipendiato le canaglie, i fascisti facce da carogne, li hanno ripescati dalle fogne. Dicembre a Milano. E allora ancora Onda Rossa, 10 minuti all'incirca a mezzogiorno. Noi siamo al telefono con il compagno Lello. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, il compagno Lello lo presentiamo, è uno dei compagni che diciamo conosceva, Pino Pinelli, con lui ha trascorso anche quei terribili momenti alla questura di Milano, quindi può ricostruirci senz'altro insomma la storia di quelle giornate, di quando cioè gli anarchici furono indiziati come colpevoli della strage, trascurando almeno in quelle prime settimane qualsiasi tipo di altra pista, trascurando le trame che in realtà si stavano ordendo nei piani alti dei palazzi, come poi invece le controinchieste hanno teso sufficientemente a dimostrare. Insomma, Lello, chiaramente a te chiediamo di ricostruirci quelle giornate così come tu le ricordi, è chiaramente anche un ricordo del ferroviere anarchico Pinelli, chi meglio di te può farlo? Bene, facciamo prima il ricordo di Pinelli. Io ero un ragazzo, cioè avevo 20 anni, Pinelli era una persona più adulta, era più grande di me, no? E vedere una persona più adulta in quegli anni con tanta voglia di fare, con tanta voglia di cambiare, con tanta capacità di comunicare con i giovani, di capirli, di star vicino ai giovani, di non creare distanza con loro, era una cosa straordinaria, come qualunque ragazzo di oggi può capire, no? Quindi con lui c'era un legame da compagni e da amici, era un punto di riferimento per i ragazzi come me che era poco tempo che facevano attività politica. Era una persona straordinaria, era una persona speciale perché riusciva a condurre una vita diciamo normale fra virgolette, lavorava alle ferrovie, era sindacalista, aveva una famiglia e c'aveva due figli, una moglie, e nel contempo riusciva a fare un'attività politica costante, incessante, era presente, era attivo, era partecipe, vi ripeto, era un punto di riferimento e un esempio. In quei giorni, subito dopo le bombe di Piazza Fontana, come avete ben detto, hanno arrestato solamente fra gli anarchici. La questura di Milano era piena di anarchici, i primi giorni eravamo in tanti, di mano in mano siamo diminuiti. Adesso vorrei arrivare al punto chiave, no? Quando il 15 dicembre in questura restiamo solamente io e il Pino. Tutti gli altri compagni erano stati interrogati, erano stati rilasciati naturalmente perché non c'entravamo niente, restiamo là noi due, entrambi un po' seccati, un po' stupati perché era parecchio tempo che eravamo lì, naturalmente per entrambi era scaduto il termine legale di fermo, avevano superato tutti i tempi che venivano dati dalla legge per trattenere in stato di fermo una persona, eravamo lì, eravamo in una stanza, aspettavamo che venissero a chiamarci. A un certo punto chiamano Giuseppe Pinelli, lo chiamo Pino come l'ho sempre chiamato, chiamano Pino e lo vanno a interrogare. Il Pino viene interrogato in una stanza vicino a dove stavo io, cioè io stavo in uno stanzone molto grande, molto ampio, c'era un'apertura sulla parete dalla quale vedevo benissimo il corridoio. È importante questo perché è il succo della mia testimonianza di quella sera. Il Pino va col commissario Calabresi, che io conoscevo bene, e con altri poliziotti nella stanza vicino. Eravamo tardi, era la sera tardi, tutto questo si svolge grosso modo fra le 10 e mezzanotte, nella questura di Milano ormai assolutamente vuota, non c'era nessun rumore, non c'erano persone che andavano e venivano. Il Pino viene portato in una stanza che resta verso l'interno dell'appartamento rispetto a dove stavo io. Io avevo una grande apertura sulla parete, vedevo perfettamente il corridoio. Il compagno Pino viene portato, il commissario Calabresi va nella stanza con lui. Quello che succede io non lo sento, non sento bene i rumori, non sento bene quello che viene nella stanza vicino. Finché a un certo punto, sarà stato un quarto d'ora, 20 minuti prima di mezzanotte, sento chiaramente dei rumori che indicano un trambusto, una rissa, qualcosa è successo in quella stanza. Non riesco a distinguere perfettamente niente, ma sento mobili che si spostano bruscamente, sento voci concitate, qualcosa è successo. un quarto d'ora, 20 minuti prima di mezzanotte, nella stanza dove stavano interrogando il compagno Giuseppe Pinelli. Dopodiché ripiomba il silenzio e il primo rumore che io sento rompere quel silenzio è quel rumore terribile, assurdo, che ancora oggi non amo molto ricordare, del corpo del compagno Pinelli che cade. Dopo vengo a saperlo, naturalmente al momento non capisco, sento un rumore sordo di qualcosa che cade, e dopo vengo a capire che è il corpo del compagno Giuseppe Pinelli che cade nel cortile della Questura di Milano. Il commissario Calabresi era sicuramente nella stanza, perché in quella stanza è entrato e da quella stanza non è più uscito. Se fosse uscito per andare, come da lui dichiarato, dal commissario dal capo dell'ufficio politico della Questura di Milano, Allegra, sarebbe dovuto passare davanti a me, davanti all'apertura che c'avevo di fronte, sarebbe dovuto passare per il corridoio e non è passato. Ora, il commissario Calabresi era in quella stanza per alcuni motivi molto precisi. Primo, perché non è passato, e se uno entra in una stanza e non esce, è nella stanza. Secondo, perché pochi istanti dopo la morte del compagno Pinelli si è avvicinato a me e mi ha detto con la sua bocca: lo stavamo interrogando, non capisco perché si sia buttato. Cioè lui mi ha detto che stava interrogando il compagno Pinelli in quella stanza. Questo naturalmente non lo dico oggi, l'ho detto 40 anni fa, dopo pochi giorni, a un giudice che mi ha interrogato in merito alla questione. Poi il commissario Calabresi era in quella stanza, perché lo dice anche il capo dell'ufficio politico della Questura, il quale in un verbale che è stato reso noto in questi ultimi anni dice testualmente che il commissario Calabresi stava interrogando Giuseppe Pinelli quando lui si è ucciso. Poi, queste cose non le dico a commissario Calabresi morto. Io queste cose, così come le dico a voi oggi, le ho dette al processo Calabresi Lotta Continua. Le ho dette quando il commissario Calabresi era presente, sentiva quello che dicevo, e c'era il suo avvocato difensore, che era l'avvocato Lerner di Milano, un grosso penalista dei tempi. Io ho detto queste cose precise, cioè che lui era nella stanza, che lui non era uscito. Ho detto che lui mi aveva detto che stava interrogando Pinelli quando Pinelli è caduto dalla finestra. Il suo avvocato difensore non mi ha neanche controinterrogato. Quindi lui ha avuto personalmente, commissario Calabresi, l'opportunità di ribattere a quello che io dicevo. Quindi resta, secondo me, ormai storicamente chiaro, assodato, che il commissario Calabresi era in quella stanza. Fatto questo, importante, perché quando si può dire con chiarezza che qualcuno mente, si può dire con altrettanta chiarezza che qualcuno sta nascondendo la verità, che qualcuno ha qualcosa da nascondere. Io vorrei dire una cosa ai ragazzi di oggi: questi fatti sono molto lontani nel tempo, possono sembrare superati, sorpassati. Guardate compagni, non è così, perché lottare per la verità, lottare per la giustizia non è una questione di quantità, una questione di un problema che avviene oggi, avviene domani o è avvenuto 100 anni fa, è sempre giusto e sempre attuale. Se oggi siamo nella situazione in cui siamo è perché è stato permesso allo Stato di fare quello che ha fatto per tanti anni, di compiere stragi e di nascondersi, di ammazzare compagni innocenti e di nascondersi. La morte di Giuseppe Pinelli non è un mistero dello Stato italiano. Noi sappiamo benissimo dove è stato ucciso il compagno Giuseppe Pinelli, sappiamo benissimo da chi è stato assassinato il compagno Giuseppe Pinelli. Io sempre li indico per nome, io indico senza nessun timore, indico il commissario Luigi Calabresi come assassino del compagno Pinelli, e indico il tenente Lograno, e indico dei carabinieri, e indico gli altri poliziotti presenti nella stanza. Mi viene in mente Panessa, Caracuta, Mainardi e chi altri c'era. Noi sappiamo tutto questo, ci sfugge qualche particolare naturalmente perché non eravamo lì nella stanza. La morte di Giuseppe Pinelli non è un mistero, è un esempio di arroganza, è un esempio di come il potere si ritenga al di sopra della giustizia, di come anche smascherato con evidenza continui a negare la verità. Guarda, Lello, le tue parole, insomma, davvero in un certo senso si incastrano benissimo nel quadro che abbiamo inizialmente fornito, iniziando questo spazio radiofonico. Noi dicevamo per l'appunto che troppo abusato è questo ritornello che non si sa una verità sulla strage di Piazza Fontana, sul periodo dello stragismo in particolare. Evidentemente è un ritornello che funziona, perché così si scagiona lo Stato e i suoi apparati dalle responsabilità che invece sono state lungamente accertate. Così come il tuo ragionamento si intreccia bene a quanto dicevamo poc'anzi anche con Marco, che è qui presente, rispetto al discorso della memoria condivisa che viene da più parti invocata, e proprio, diciamo, i tentativi poi di accreditare alla storia versioni che distanziano anni luce poi dalla verità, tutto per camuffare quello che è successo e per rendere personaggi assolutamente invisi all'epoca ai compagni, e che dovrebbero continuare a esserli rispetto all'intera società, e che invece vengono omaggiati per la loro presunta alta personalità. Mi riferisco ovviamente al commissario Calabresi. Insomma, purtroppo è vero, insomma, l'acqua sotto i ponti passa per tutti, però insomma è davvero brutto che anche perché la storia la fanno sempre i vincitori, poi a dirci com'era questo o quel personaggio siano gli stessi che quella strage l'hanno orchestrata. Insomma, oggi, anche in virtù di quanto successo l'anno scorso, le commemorazioni, il tentativo da parte dello Stato nella persona del Presidente della Repubblica di chiamare a sé e in un certo senso quindi rendere anche la memoria della Vedova Pinelli ostaggio della memoria di Stato, insomma, sono tutti tentativi che davvero noi mal digeriamo, e le tue parole confermano il fatto che ancora a tanti anni di distanza c'è un dolore, insomma, per come le cose si sono messe e per questi tentativi di mistificazione, insomma, della storia, che sono ancora in atto, no? Certo, sono in atto e continuano. E sulla luce del successo, fra virgolette, ottenuto, continuano anche ai giorni nostri, ne vediamo le conseguenze, no? Continuano a mistificare tutto, si cerca di riscrivere tutto, di cambiare tutto. Il fatto di equiparare il nostro compagno Giuseppe Pinelli alle vittime del terrorismo è un tentativo così grottesco che non ha alcun senso. Cioè, non ha alcun senso. Se il compagno Giuseppe Pinelli potesse sentire quello che dicono e sapere quello che succede, ne sarebbe disgustato. Senti, vuoi aggiungere qualcosa? È stato ucciso perché era un compagno, è stato ucciso dallo Stato perché era un compagno, perché era un bravo compagno. Questa è la verità. Non è stata una vittima occasionale, non si è trovato in un luogo per sbaglio, in un luogo in cui è successo qualcosa che lo ha coinvolto. No, la morte di Giuseppe Pinelli è stata orchestrata dallo Stato perché era un bravo compagno. Pietro Valpreda è stato accusato dallo Stato perché era un bravo compagno. Ogni altra verità è falsa. Poi, se le famiglie per conto loro han voluto fare un discorso di precipitazione, le famiglie, io le rispetto in questo, non so se mi spiego, compagno, le famiglie hanno un dolore privato particolare, no? Certo. Però, e sono fatti loro, però politicamente il nostro compagno sta a noi difenderlo e non farlo confondere per quello che non è. E infatti, lo dicevamo proprio poco fa, il fatto che sia stata utilizzata in maniera veramente inqualificabile il dolore di una donna, di una compagna, certo, delle sue figlie, e magari invece poi è stato completamente ignorato il dolore di quei compagni e la rabbia di quei compagni che invece hanno pagato, come anche tu. E ci davamo i compagni della 22 marzo e tutti gli altri che hanno pagato con anni di galera vedendo ammazzare i loro amici, i loro compagni da parte dello Stato. Per quelli non c'è nessuna nessun tipo di pietà, e addirittura dicevamo ancora oggi, tramite questi tentativi e anche tentativi che fanno alcuni pendivendoli, tra cui prima fra tutte abbiamo citato Cucchiarelli, che continuano a infangare e a gettare appunto discredito, fango, sutterio e anche veramente ridicole come quello utilizzato in questo caso specifico. Ma non so se voi sapete che l'iniziativa di Napolitano dell'anno scorso è stata espressamente chiesta a lui dal figlio di Calabresi. Sì, sì, beh, è chiaro. Cioè, il quale ha un potere che io non so definire e non so da dove gli venga, però lui sta cercando in tutti i modi, non capisco neanche perché, in quanto lui è il figlio, cosa c'entra il figlio con quello che ha fatto o non ha fatto il padre, mi spiego? Così come io ritengo ingiusto che le colpe dei padri ricadano sui figli, ritengo assolutamente assurdo che i meriti dei figli possano ripulire la figura del padre. E quello che sconcerta in questa storia è che, al di là di tutto quello che noi possiamo dire, il compagno Giuseppe Pinelli era affidato alla custodia di un gruppo di uomini dello Stato comandati dal commissario Calabresi. Gli era stato affidato la loro custodia vivo. Questo compagno è morto. Al di là di qualunque altro discorso, questi uomini sono responsabili oggettivamente di quello che è successo al compagno Pinelli. E anziché essere in qualche modo castigati per la loro, se non altro, negligenza che ha causato la morte di un fermato, vengono glorificati. Cioè, l'iter del commissario Calabresi lascia stupefatti. Medaglia d'oro, francobollo, busti, monumenti, cioè addirittura chi ha chiesto che fosse santificato, e questo non è una barzelletta, un gruppo di Firenze, non so chi ha chiesto che fosse santificato. Ora, di fronte a questo noi restiamo veramente esterefatti, ma non, vedi, io sono ancora arrabbiato, sono come hai detto giustamente tu, io sono veramente arrabbiato di quello che stanno facendo. Cioè, non solo non chiedono scusa, non solo non ammettono quello che è successo, ma addirittura vogliono ribaltare il tutto, in che è insostenibile. È insostenibile da parte loro ed è insopportabile da parte nostra, perché finché non riusciremo a stroncare questo loro tentativo, ogni volta che questo si presenta, non solo per il fatto di Pinelli, ma per qualunque fatto, questi continueranno a fare quello che vogliono, chiameranno le guerre di invasione per il petrolio missioni di pace, e continueranno a mistificare tutto, a vendere a tutti una serie di menzogne che non stanno né in piedi né in terra. In questo senso è importante che i ragazzi capiscano che è una sola battaglia quella che si combatte per cercare di arrivare alla verità, perché non è che si combatte la verità perché si vuole essere legalisti. Se noi obblighiamo questo Stato a dire la verità, noi lo demistifichiamo agli occhi di tutti. È un passo avanti importante verso la rivoluzione. Loro non possono dire la verità, perché la verità li condanna, la verità li mostra per quello che sono, e in questo senso dobbiamo obbligarli a dirla, dobbiamo cercare di arrivarci, perché sarebbe un passo importante avanti. Bene, non si può che concordare con le tue parole, Lello, non solo per l'afflato ancora forte verso l'ipotesi della trasformazione rivoluzionaria, che non hai evidentemente smarrito, insomma. No. ma anche, insomma, per le tue parole chiarissime rispetto appunto anche alla differenza che passa tra la verità storica accertata, documentata, conosciuta, diffusa sin dalle prime ore dai compagni che si sforzarono in questa opera davvero ammirevole, lodevole, di controinformazione, poi diffusa attraverso i canali di movimento, ma non scordiamoci, certo, che gli stessi inquirenti poi hanno dovuto evidentemente far tesoro delle informazioni e di quanto i compagni hanno lumeggiato rispetto, no, alle ombre delle storie di Piazza Fontana, per poi oggi fare i conti con chi dice che ancora la verità non si sa, e questo solo e soltanto perché non è stato emesso un verdetto di colpevolezza da parte di questo o quel tribunale. Ci sembra, insomma, una questione francamente davvero risibile. l'hai detto bene tu, insomma, e lo ripetiamo anche noi, lo abbiamo fatto anche per Brescia qualche settimana fa, cioè che poi le associazioni dei parenti delle vittime delle stragi vogliano che vi sia anche la sentenza di colpevolezza per questo quel fascista o per questo quel generale dei carabinieri che insomma si è attivato per i depistaggi, beh, tutto sommato lo possiamo anche ritenere comprensibile. Certo. Il fatto è che la verità che interessa a noi però è un'altra, non è affatto quella che diciamo potrebbe essere, ma non lo è tra l'altro, recitata nelle aule dei tribunali. La verità che ci interessa è quella che in un modo o nell'altro ci hai descritto tu oggi e che nessuno, scusate insomma un po' la retorica, nessuno davvero potrà cancellare. Ti lascio magari a te, Pasquale, Marco, le parole ultime per una conclusione, visto che andiamo davvero agli sgoccioli di questo spazio. Sì, io volevo appunto chiudere questo dicendo che poi tutta questa storia è storia, ma è attuale anche perché compagni e compagni vengono ancora uccisi tutti i giorni. Non a caso qualche tempo fa abbiamo ricordato Mastro Giovanni, che fu in un certo senso anche in quel caso poi legato un po' a tutte queste vicende. Lui si trovava insieme al compagno Marini, che appunto portò avanti la campagna, una grossa campagna di controinformazione su queste cose, e si trovò appunto in quella fase ad essere coinvolto in un'aggressione che loro subirono da parte di alcuni fascisti, e lo Stato non l'ha dimenticato, uccidendolo qualche anno fa in regime di ricovero coatto, dopo che aveva già subito altri trattamenti sanitari obbligatori e altri periodi di carcere. Quindi non è poi una storia che si è fermata lì, e ripeto, anche i compagni che hanno subito anni di galera, hanno visto uccidere i propri compagni, ancora oggi vengono richiamati in causa, riaccusati delle stesse cose già abbondantemente smentite. E io vorrei concludere ricordando un po' gli appuntamenti che realizzeremo appunto in questa metà di dicembre. Ricordo sicuramente domani noi saremo in Sabina, sempre nell'ottica della memoria storica, a ricordare un altro terribile eccidio commesso dallo Stato a danno di alcuni braccianti in Sabina. Il 12 dicembre ci sarà un concerto in sostegno d'Umanità Nova di Claudio Logli alla Locanda Atlantide a San Lorenzo alle ore 9, e quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare. Poi intorno al 15-16 daremo migliori indicazioni sulla data precisa, faremo un altro momento di incontro e di confronto proprio sui fatti di Piazza Fontana e dell'uccisione del compagno Pinelli, con i compagni del 22 marzo ed altri compagni che parteciperanno alla giornata. Bene, allora Pasquale, noi ti ringraziamo per il tuo intervento. Sono io che ringrazio voi, siete molto bravi a parlare di queste cose, vi ringrazio tanto, è stato un piacere parlare con voi, grazie. Grazie a te, il piacere nostro. Arrivederci. Ciao, a presto, ciao. E dunque chiudiamo qui questo spazio dedicato appunto ai fatti di Piazza Fontana. Ricordiamo che un ulteriore approfondimento è previsto per sabato mattina, magari insomma sarà l'occasione per parlare in modo più approfondito del libro di Paolo Cucchiarelli e delle verità rivelate o presunte tali più che altro di questo autore. Chiaramente noi non è che ce l'abbiamo con chi scrive nuovi libri su quel periodo. Dei libri si possono scrivere, si possono anche trovare trame interessanti, non a caso insomma libri interessanti su quel periodo ne continuano ad uscire. Quindi quando noi diciamo la verità già si sa ed è acclarata, non è che diciamo che non si può dire niente su quanto successo, è diciamo un'attenta investigazione delle fonti non può aiutare a ripristinare anche barlumi di verità nuova, ma dipende insomma poi dal fine che diciamo muove questo tipo di tentativi. facciamo un titolo, recentemente è uscito un libro, recentemente anche un paio d'anni saranno, il libro di Franzinelli, La sottile linea nera, che diciamo indaga i rapporti tra servizi segreti e neofascisti da Piazza Fontana a Piazza della Loggia. Certamente è un libro interessante, interessante, ma perché la tesi è convincente, cioè si parla insomma di una storia, lo si fa attraverso fonti documentate, fonti archivistiche, lo si fa in modo serio, l'impianto non vuole stravolgere nulla, ci dà delle verità nuove, perché mette ad esempio bene a fuoco i tentativi di depistaggio fatti da, da Delfino, che è uscito fuori il suo nome nuovamente, anche se poi assolto per Piazza della Loggia, di Palumbo, di tanti altri generali sparsi soprattutto nell'area del nord-est, delle coperture che hanno fornito agli stragisti, degli insabbiamenti che hanno provocato. Insomma, è un'altra cosa, questo è un modo che possiamo considerare serio di riparlare di quegli anni e magari anche di dare qualche novità. Altro è invece diciamo il rovistare, il rovesciare le cose, mettere diciamo, come dicevamo all'inizio, sul banco degli imputati personaggi la cui memoria non può appunto essere nuovamente infangata a così tanti anni di distanza. Ringraziamo chiaramente Marco del Cafiero. E c'è una telefonata, non so come fare a prenderla, prendo direttamente di qui, oppure se non ce la facciamo magari proviamoci un po', vediamoci un po'. Pronto? Pronto? Pronto? Allora, chiediamo a chi ha chiamato se sei all'ascolto? No, allora chiediamo gentilmente a chi ha chiamato, che magari voleva intervenire, anche se abbiamo pochissimo tempo, di provare di nuovo a chiamare, la telefonata la riprendiamo, anche perché volevamo anche dare un altro appuntamento su Piazza Fontana, ma adesso mandiamo un po' di musica e ci organizziamo. Tutto qua è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Nato in mezzo al fiume della mia città, nel cuore della mia città, chi nasce qua, qua ci resta. La gente vive nel posto nel quale abito, intorno a me, ma non ne vive neanche un attimo. Nada passata qua sotto sti ponti, prima che si risolvano e ritornino i conti. Quante ne ho viste e vissuto, ne ho fatte